piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Santa Maria, Santa Maria, Maria. Ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora. Questo è il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano, vuoto, che però ha avuto 25 milioni di visualizzazioni su YouTube. È stata una cosa bella, commovente, emozionante, dato il momento particolare che tutti condividiamo, di una Pasqua chiusi dentro casa. È stato bello trovarsi comunque uniti, per chi ha seguito questo concerto, l'ha apprezzato, nel vedere un artista di fama internazionale, un nostro artista di fama internazionale, prodursi in qualcosa che era fatto proprio per chi stava dentro casa. Oggi parliamo in realtà di tutte le persone che non sono Bocelli, che comunque svolgono un lavoro ascrivibile alla categoria dell'arte. Le persone che suonano musica, cantano, producono opere d'arte, o perlomeno sono indirizzate verso la diffusione, la propagazione, la fruizione di tutto ciò che è frutto dell'ingegno umano nella direzione della costruzione dell'immaginario. Per arte intendo anche chi disegna moda, chi disegna abiti, chi disegna oggetti di gusto. Per arte intendo tutti coloro che organizzano manifestazioni che hanno a che fare con l'arte, la poesia, la letteratura. Tutte le persone che suonano uno strumento, tutte le persone che cantano, tutte le persone che dipingono, tutte le persone che disegnano, immaginano. Ecco, tutti questi cosa faranno? Noi vediamo che per Bocelli è stato possibile, data la sua fama smisurata. Altri lo stanno facendo da casa ogni giorno, ci sono un'infinità di tentativi, di orchestre che suonano a distanza, di artisti che suonano a distanza, di gente che canta, di gente che organizza mostre d'arte virtuali. Ma esiste un settore molto importante nel nostro paese, anzi per molti è il vero petrolio della nostra civilizzazione, che in realtà rischia di essere seriamente compromesso. Noi siamo esseri umani costituiti da alcuni bisogni primari, che sono quelli di avere un tetto sulla testa, di nutrirci, poi verrà il bisogno comunque di avere relazioni con altre persone, e per molti sono già bisogni seriamente, fortemente compromessi. Ma esiste un bisogno fondamentale che non può essere comunque negato, che è quello della fruizione del bello, della fruizione dell'arte, della fruizione della musica, della fruizione di chi ha questa sorta di bisogno di nutrimento interiore. E guardate, non è una necessità elitaria, non è superfluo, non è da sottovalutare. Ci accorgeremo prima o poi che magari riusciremo a fare in modo che a nessuno manchi il sostentamento primario, e sarebbe già un grande risultato, un fantastico risultato. Immediatamente dopo dovremmo preoccuparci anche di un altro tipo di nutrimento che rischia di essere compromesso. Un artista che si spegne perché non ha fonti di sostentamento, è un artista in meno. È un violino in meno che suona, è un pennello in meno che dipinge, è una matita in meno che progetta, che disegna, che immagina. Questo significa un appassirsi del bello intorno a noi. Il bello non è superfluo, ciò che appaga piacevolmente i nostri sensi fa parte della nostra natura umana, e sottraendoci umanità, occasione di umanità, rischiamo di arrivare a un tracollo vero della nostra civiltà, che già è seriamente messa comunque in precario equilibrio da quello che accade. Mi sono accorto questa mattina di aver avuto il bisogno di mettermi un po' di profumo addosso, ma non lo faccio da almeno un mese e mezzo. Io ho un tipo di colonia che metto da almeno 20 anni, 25 anni, sempre la stessa, non perché mi piaccia essere profumato, mi piace avere un odore costante. E chi mi conosce sa che è facile riconoscermi dall'odore di cui sono impregnato ormai. Perché? Perché metti la stessa colonia addosso da 25 anni, forse anche 30 anni, molto difficile trovarla sul mercato. Esistono alcune profumerie che ancora approvvigionano gli appassionati di questo tipo di colonia. E io le cerco disperatamente come dei pusher, me ne prendo sempre due o tre flaconi. Era il mio piccolo momento di lusso superfluo. E poi non me la sono più messa, pertanto non esco più, sto dentro casa. Chi m'annusa? Tommy è piuttosto indifferente. Non sto a contatto inferiore a un metro e mezzo con un essere umano, ma da almeno un mese e mezzo, che non siano i miei figli. E quindi è naturale che non ne abbia bisogno. Oggi, proprio perché volevo parlare di quello che viene considerato superfluo, ho sentito questo bisogno. Ho sentito bisogno di riavere il mio odore consueto. Ecco, io vorrei questa mattina mi chiamassero tutte le persone che comunque sono veramente impegnate in una attività artistica, che fanno gli artisti o aspirano a essere artisti, o perlomeno si muovono nel campo dell'espressione e della diffusione del bello. Disegnano, progettano, dipingono, suonano, cantano. Ecco, quale sarà il vostro futuro? Come vi state organizzando? È chiaro che niente sarà più come prima per molto tempo. Noi potremmo anche tornare magari a uscire per strada, a poter passeggiare, ma sempre a distanza di un metro e mezzo, non ci illudiamo, finché non sarà trovato un vaccino efficace, sperimentato, distribuibile a tutti, che ci tolga l'incubo del coronavirus, dovremo sempre tenere comunque delle condizioni di sicurezza. È inutile che ci illudiamo sugli ottimismi. Sì, magari si riapriranno degli uffici, si tornerà a lavorare, ci sarà una maniera per controllare le persone che in qualche maniera possono essere considerate meno a rischio. Ma per il resto del mondo c'è sempre un incubo, e questo incubo probabilmente ci riuscirà in ogni modo a far lavorare per quanto possibile, a mangiare, a dormire, ad avere delle frequentazioni molto limitate con gli altri esseri umani, ma ci impedirà comunque di usufruire di una parte per molto importante della propria giornata, che è quello di andare a un concerto, di andare a vedere un film, di andare a una mostra d'arte, di andare a una rassegna di moda, ma andare anche a una fiera dell'artigianato, a una fiera del mobile, a una manifestazione del vino buono o dell'arte culinaria. Anche quelle sono espressioni artistiche viste da un certo punto di vista. Ecco, tutto questo è seriamente e notevolmente compromesso. Quindi 800240024, aspetto le vostre telefonate. Intanto vi do una prima testimonianza di quello che è una reale oggettiva difficoltà, che sicuramente in questo momento non è sotto osservazione rispetto a chi racconta le emergenze, racconta le difficoltà, ma che vorrei comunque segnalare all'attenzione di tutti. Carlo Putelli, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno, grazie. Carlo Putelli è un tenore, un tenore del coro dell'Accademia di Santa Cecilia e anche un compositore. Sì. La sua giornata com'è cambiata in quest'ultimo mese e mezzo? Sì, la mia giornata direi che è cambiata drasticamente per quanto riguarda tutte quante quelle che sono le abitudini legate innanzitutto allo studio, all'esercitazione giornaliera, in parte come prima, nel senso che anche prima diciamo parte dello studio per me che sono cantante, come d'altro canto anche per uno strumentista, passa per il lavoro a casa. Il lavoro a casa è sullo studio delle partiture, che possono essere in PDF su un iPad o stampate, eccetera, e poi però c'è il momento che è più importante, e in questo è cambiata molto la mia giornata. Alla mia giornata è privato il momento clou, cioè il momento di incontro con gli altri, è il momento al quale alludeva lei prima, in cui si comincia a fare musica, perché la musica è un'attività, come molte attività artistiche, che si svolge insieme agli altri. È un'attività molto promiscua nel mio caso, perché io sono un cantante di coro, e quindi cosa c'è di più promiscuo che cantare a pochi metri di distanza con quelle famose goccioline. Carlo Putelli, io vedo che molti stanno facendo tentativi che hanno un aspetto più che altro performativo, sperimentale, di incoraggiamento al ritorno alla vita, genera l'ottimismo. Molti suoi colleghi hanno provato a fare orchestre che suonano con il direttore a casa sua e tutti i membri. Sì, è bello, è divertente vederlo per una volta, ma se noi dobbiamo spalmare questi esperimenti nel corso di un probabile anno, anno e mezzo, forse due anni, ecco, il vostro lavoro come potrete portarlo avanti? Non è, si può continuare a giocare con Skype per un altro anno, secondo me. Esatto, esatto, ma diciamo che il nostro principale problema è soprattutto legato al tempo, sicuramente all'esigenza di una conservazione delle prerogative professionali che riguardano la tecnica, l'esercitarsi sempre, la conservazione della tecnica e l'allenamento dei muscoli fatti quotidianamente che danno la professionalità. Allora, per fare questo sicuramente insomma, in parte si può fare a casa, in parte esistono varie soluzioni e, come lei ricordava prima, adesso, a parte la pratica dei concerti streaming su piattaforme digitali, che è ormai svolta con successo da diversi anni presso diverse realtà concertistiche, ricordo, sì, però una certo, persona... in un paese in cui la connettività per molti sono i 4G del telefonino, un po', se va bene. Certo, è un po', sì, ricordo insomma il sito dei Berliner Philharmoniker, dove c'è un sito di streaming dove addirittura si possono acquistare biglietti. Ricordo anche il progetto diciamo della Scala di Milano e della mia Accademia di Santa Cecilia, che aveva uno spazio web, Pappano in web, con il nostro direttore stabile, e sicuramente è stata una iniziativa encomiabile, pionieristica in Italia per quanto riguarda l'aspetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, cioè si accedeva a una pagina web dove in streaming potevano venivano trasmessi i nostri concerti. Sì, ma al momento io vorrei sì, esporlo proprio concretamente il problema. Sì. In Italia non mi sembra, queste a parte sono sperimentazioni d'avanguardia che aveva un acume e una lungimiranza, ma fino a 3 mesi fa nessuno pensava, immagino, in nessuna accademia d'Italia come quella di Santa Cecilia, che vi sareste trovati a dover affrontare il problema di se volete lavorare dovete trovare una maniera diversa rispetto ad andare tutti i giorni a Santa Cecilia a vedervi, cantare assieme, suonare assieme. Voi adesso, cioè, vi ponete il problema che accadrà da qui a un mese di voi, del vostro lavoro, di quello per cui lavoravate? Ce lo poniamo e non dormiamo la notte per questo, nel senso che ci sono degli strumenti che potrebbero essere implementati, e se ci fosse, diciamo, una volontà, o comunque insomma potrebbero essere, io la butto lì, insomma, ecco, ci sono per esempio delle piattaforme come Zoom, ci sono delle piattaforme come Skype. Queste piattaforme, in particolare penso a Zoom, che è già usata dai maestri, sì, ormai la usano tutti, Zoom è diventato tutti. Ecco, infatti, il gioco del momento. Esattamente. Sì, è facilmente violabile. È anche vero che ci sono persone che molti usano Zoom per passare la loro giornata e continuare a lavorare, molti usano per andare a rompere le scatole agli altri. Ci sono delle app che permettono di entrare nelle conversazioni Zoom, ci buttano materiale pornografico, esattamente, disturbi esattamente. Vari. Però ecco, anche quello potrebbe essere facilmente eludibile con delle implementazioni. Diciamo delle che ne esistono di ben più, di più robuste e di più professionali. Diciamo Zoom serviva per fare delle chiacchierate in azienda, nessuno ha mai pensato che diventava l'unico motivo. Fermo un attimo, Putelli, però voglio aggiungere anche un altro suo, in qualche maniera, collega, se così posso chiamarlo, perché voglio dare un quadro generale prima che le persone mi dicano se sentono questo bisogno e se si rendono conto che in realtà, prima che possano andare ad assistere a un concerto, una rappresentazione teatrale, in un luogo costruito, organizzato, immaginato e progettato per fare questo, passerà un po' di tempo. Fabrizio Maria Carminati, buongiorno. Buongiorno. È direttore artistico del Teatro Massimo Bellini di Catania e anche direttore d'orchestra. Ecco, voi siete fra i pochi in Italia che avete organizzato lo smart working anche per i vostri artisti. Come vi siete organizzati? Perché siete avanti rispetto ad altri? Ma avanti non lo so, sicuramente siamo in una fase di sperimentazione, in quanto noi applichiamo l'articolo 87 del decreto legge del 17 marzo, il lavoro agile, e in quanto siamo ente pubblico della regione Sicilia. Noi abbiamo adottato questo sistema, ormai siamo in lavoro agile dal 31 di marzo, e come ha annunciato il sovrintendente del nostro teatro, il dottor Cultrera, che cito, lui dice si programmerà nuovamente non appena sarà possibile tutti i concerti lirico-sinfonici e le opere in cartone del 2020 momentaneamente sospesi. Ecco, a questo punto la mia personale speranza è innanzitutto che i contagi diminuiscano sensibilmente o addirittura si azzerino. Nel frattempo noi cerchiamo di tenere vive e attive le facoltà intellettuali, teoriche e pratiche, sia degli esecutori, che alla fine sono i nostri professori d'orchestra, gli artisti del coro, i maestri collaboratori, che sono tutti relegati al proprio domicilio, e anche del nostro pubblico. Tra l'altro in questi giorni si segue anche sui social la nostra attività, grazie a un'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura che si chiama Platea Comune del Comune di Catania. Quindi si può assistere alle prove, diciamo, dell'orchestra del Teatro Bellini di Catania? Non proprio così. Si può assistere a delle performance personali di tutti i vari professori d'orchestra che si sono prodotti in questa iniziativa, attraverso la spiegazione ad esempio di come è fatto il proprio strumento e poi anche di performance musicali che vengono prodotte al momento. Quindi si è inventato, diciamo, un modulo di spettacolo che non esisteva prima, il maestro racconta, sì, qualcosa del genere. Sì, esattamente, questa è l'iniziativa che è partita tra l'altro il giorno di Pasquetta e stiamo caricando su questo sito del comune, che poi può essere utilizzato da chiunque, insomma, tutte queste iniziative che tengono vicino in pratica il nostro pubblico e lo tengono attivo al lavoro quotidiano anche dei nostri dipendenti. Però, maestro Camminati, mi conferma che al momento non esiste un'idea, un'iniziativa, una proposta a livello nazionale che vada oltre quella che è l'iniziativa individuale di ognuno di voi che si sta muovendo? Nessuno sta pensando che l'Italia, che ha sempre detto il nostro petrolio è l'arte, il teatro, la lirica, la musica, il design, poi in questo momento nessuno ha pensato che anche voi avete necessità di sopravvivere per alimentare anche la qualità della nostra vita? Questo sì è il problema di fondo. Tutte le categorie legate ai teatri, e parlo del comparto dei teatri lirici, sono tutte, per così dire, a piedi, senza lavoro. Alcuni addirittura si sono visti cancellare il contratto prove facendo, proprio nel periodo a cavallo fra marzo e aprile, ed altri si vedono cancellare intere produzioni dalle fondazioni che, ovviamente non potendo più produrre, sono costrette a causa forza maggiore ad interrompere i contratti con tutti gli artisti. Questa è una categoria che soffre molto in questo periodo e soffrirà molto soprattutto in futuro. Non ha pochissime possibilità di recuperare. Proprio per questo motivo noi abbiamo messo il personale in lavoro agile, perché riteniamo che possano essere sfruttate tutte le situazioni che permettono ai professori d'orchestra, agli artisti del coro e ai collaboratori di attivare, insomma, le proprie capacità intellettuali. Noi abbiamo organizzato in questo modo il nostro lavoro. L'archivio fornisce le parti via mail o via WhatsApp a tutti i professori d'orchestra e a tutti gli artisti del coro e collaboratori, i quali da casa applicano praticamente le prove a sezioni, che hanno durate diverse all'interno dell'ossatura del personale di un teatro, per cui i professori d'orchestra lavorano 4 ore al giorno in 2 turni, i professori del coro lavorano 3 ore al giorno in 2 turni, e così anche. Io devo un attimo interrompere, maestro, le dispiace, sì. Fermiamo solo un secondo che devo lasciare la linea, ma la riprendiamo fra un minuto. Intanto si prepari, vorrei che mi rispondesse lei, ma anche l'altro ospite, se in vista della bella stagione c'è una possibilità alternativa, potendo disporre di spazi all'aperto, ma la vedo anche lì piuttosto difficile, perché poi gli orchestrali dovranno stare comunque a contatto promiscuo, di fare spettacoli all'aperto in cui sia possibile mantenere le distanze. Ci fermiamo un istante solo. Melog 800240024. Intanto ringrazio anche io chi mi permette di andare in onda, di fare smart working nella mia possibilità di esprimermi radiofonicamente. E Andrea Roccabella da Milano, Alessandro Marco Tulli in assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Naturalmente ringrazio sempre Sandro Fortunati che permette di mantenere in vita l'apparato che mi fa andare in onda, ma io sono fortunato. Fare radio e trasmettere anche una diretta video streaming, come potete seguirci dal sito di Radio 24, da YouTube, è abbastanza semplice. Basta avere una buona connessione a fibra a casa, avere un minimo di apparati di uso comune e ci si riesce. Ma chi deve trasmettere un concerto, chi deve trasmettere una mostra d'arte, chi deve trasmettere un'occasione per informare di moda, di design, di altre espressioni artistiche, come si fa? Mi sono interrotto, stavo parlando con Fabrizio Maria Carminati, che è direttore artistico del Teatro Bellini di Catania, che hanno messo a punto una forma di smart working che riesce a fare le prove a distanza e fornire anche al pubblico una nuova forma di spettacolo, una possibilità di vedere a casa ogni artista che parla del proprio strumento, del proprio lavoro. La domanda che le facevo prima però, Carminati, era: con l'avvenire della buona stagione, secondo lei è possibile immaginare degli spazi all'aperto in cui si faccia qualcosa che assomigli di più a quella che era un concerto, una mostra d'arte, una possibilità di fruire di musica, ad esempio, nel suo campo? Sì, noi abbiamo fiducia, la massima fiducia che tutto ciò possa avvenire entro la prima metà del mese di luglio, perché mi hanno rincuorato molto le parole del presidente Macron, che dava per quasi sicuro, perlomeno con una certa probabilità, l'apertura dei teatri dopo il 15 di luglio. Noi naturalmente ci stiamo organizzando e stiamo cercando di pensare appunto di riproporre tutta l'attività che non abbiamo dovuto interrompere alla fine del mese di febbraio, i primi di marzo, e di riproporla nel periodo estivo all'aperto. Fortunatamente a Catania abbiamo parecchie situazioni che ci permettono di farlo. Naturalmente dovremo pensare nel particolare ad un palcoscenico che permetta di tenere i professori d'orchestra a debita distanza, proprio nel rispetto delle norme, ma noi ci auguriamo e speriamo che l'estate ci porti buone notizie. Me lo auguro con tutto il cuore. Perché tutto il personale la ringrazio. Velocemente vuol dire Carlo Putelli, cioè la prima persona che avevamo sentito, che è tenore del coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Anche voi vi state organizzando in qualche maniera, perché mi sembra che da qui, affinché non ci sarà una soluzione per tutti, mettere comunque un pubblico dentro una sala di ascolto, dentro un luogo in cui si svolgono concerti, la vedo molto difficoltosa. Come vi state organizzando o vi state organizzando? Sì, noi ci stiamo organizzando, ovviamente non siamo con le mani in mano, la nostra dirigenza artistica in concerto con noi, stiamo riportando un pochettino i programmi fattibili e confermo un po' quello che diceva il maestro Carminati. Il periodo, diciamo, propizio potrebbe essere luglio. Il discorso è che tutto subiudice, come sappiamo, a questi famosi decreti, che sembra che, vista la virulenza del nord, noi siamo nel centro-sud, siamo un po' più avvantaggiati, potrebbero addirittura, questo si mormora, essere due decreti separati, uno un pochettino più blando per il centro-sud e ci permetterebbe di ricominciare. L'importante è non smettere del tutto, e questo esempio di smart working del Bellini Catania secondo me è molto importante, perché mostra una strada a quello che è un settore che pare totalmente sfilacciato, cioè Venezia fa una cosa, la Scala ne fa un'altra, il Maggio ne fa un'altra ancora. Questo è anche il nostro problema. Dopodiché diciamo che ci vorrebbe proprio in questo momento d'emergenza un coordinamento, immagino, per non sovrapporsi. Un coordinamento che di fatto non esiste, ecco. Che non sovrapporsi negli eventi, perché oggi sarebbe criminale, perché la banda è una e la gente più di uno per volta non ne può vedere, capito? E quindi cercare di dire: facciamo un piano generale, di emergenza generale, in cui creiamo un grande un palinsesto nazionale di eventi legati appunto alla fruizione dell'arte, della musica, dello spettacolo, in cui forniamo noi, diventiamo una sorta di network nazionale. Poi bisogna capire chi farà per primo questo passo. Grazie, cominciamo a sentire qualche ascoltatore. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Francesco. Buongiorno Gianluca, mi senti? Sì. Allora, senti, io sono un regista di teatro, di prosa, e dovevo fare quest'estate una commedia di Plauto con lo Stabile di Palermo. Io ti voglio sottoporre un problema. Il problema è, va bene la riapertura dei teatri, il problema sono le prove. Cioè noi dobbiamo stare un mese, 30 giorni, per 7 ore al giorno insieme, in una condizione promiscua, dove declamiamo, dove ci abbracciamo, dove prendiamo, no? È un po' difficile in questa condizione, cioè per la compagnia parlo. Ecco, capito? Ma la domanda è una curiosità mia, siccome si cambia tutto, cambia. Io so che molti pianisti durante le persecuzioni razziali, pianisti di ebrei, passavano dal piano alla fisarmonica, che non potendo suonare il piano, la fisarmonica era più trasportabile, quindi si esercitavano con le fisarmoniche, dico una banalità. Sì. Non è che bisogna ripensare, piuttosto che stare fermi, anche una riscrittura anche della regia di alcune pièce teatrali in cui gli attori paradossalmente stanno più a distanza? Ma guarda, è brutto dirlo, ma piuttosto che non far niente, piuttosto che non fare nulla. C'era quella che si chiamava la distanza di confidenza, la chiamava Eleonora Duse, cioè bisognava stare almeno a un metro tra gli interpreti, non, era come una specie di condizione dei manuali di recitazione. Nel Morrocchesi, nell'Ottocento, c'era questa distanza di confidenza che era un metro. Beh, si potrebbe anche ripristinare un teatro ottocentesco che è un po' simile a quello dell'opera lirica. Il problema, Gianluca, è questo: noi lo stiamo facendo con il Biondo di Palermo, abbiamo fatto delle lezioni streaming, di analisi del testo, dell'aulularia di Plauto, che è la commedia che devo fare io. Possiamo fare delle videoconferenze con lo scenografo, con il costumista, illustrare come si costruisce uno spettacolo. Poi però il teatro è prassi, Gianluca, cioè bisogna poi... Lo so bene. Come facciamo? Possiamo fare dei reading, ma sono di una tristezza infinita, capito? Sì, il rischio è fare... La cosa triste, che è tollerabile nei primi tempi dell'emergenza. Oggi chiunque ci manda qualcosa su YouTube ci sembra chissà cosa. Tantissimi attori, tanti tuoi colleghi fanno delle performance individuali, le mandano in giro e si passa sopra al fatto che la luce è quella di casa, della abat-jour, che il microfono è quello dello smartphone, che la forma non è quella. Ma poi cominceremo ad avere l'esigenza di qualcos'altro. E forse era proprio il caso, visto che il tempo dovrà passare, che si faccia qualcosa che assomiglia tipo alle avanguardie che destrutturano tutto l'esistente e ripropongono un metodo nuovo. È una cosa che dico io senza avere strumenti culturali, lo dico come intuizione, poi vedete se voi riuscite in qualche maniera a renderla possibile. Bisogna riscrivere proprio tutta la drammaturgia, la messa in scena, la possibilità comunque di rappresentare attraverso il massimo livello possibile di qualità che permettono i mezzi di diffusione digitale. E sarà un'altra cosa, per un anno e mezzo faremo un'altra cosa e ci si ricorderà di questo teatro, come tu hai ricordato la distanza che imponeva le rappresentazioni ottocentesche, per decenza bisognava stare a un metro, oggi probabilmente anche un metro e mezzo non farebbe male. Thomas, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, mi sente? Sì, la sento. Allora, io volevo dare un punto di vista, un po' più positivo, nel senso, io sto cercando di guardare il lato positivo di questa situazione. Che io grazie, sono lei suona al piano, lei si mette alla tastiera da solo e ha fatto il suo concerto, per lei, scusi, scherzo, per lei è abbastanza no, più certo, facile. Certo. Però mai come in questo momento, nonostante comunque possa far innervosire l'aver concerti annullati, come è successo Masterclass a cui non si può andare, lezioni dai miei studenti privati anche, tutte cancellate. Però comunque, mai come in questo momento, io ho avuto tanto tempo per studiare e per anche scrivere i miei pezzi. Quindi sto cercando di affrontare la situazione con questo punto di vista un po' più positivo. Ecco. Però mi dà atto che sì, lei lo può dire, sono felice che perlomeno qualcuno riesca a lavorare lo stesso. Un pianista si mette davanti allo strumento, si chiude in casa, anzi più sta solo più studia, può avere il momento da fare un concerto, ma per lei tutto sommato è più facile fare un concerto, le puoi dire da oggi vi faccio sentire un mio concerto, è lei in una stanza che suona al piano. Il problema dell'attore, vedo fare le prove con altri miei colleghi, ho un testo che prevede una promiscuità, dobbiamo parlarci vicino, abbracciarci, pugnalarci, correrci, tutte le cose che sono in un testo teatrale. Che facciamo? Dobbiamo riscrivere tutto da capo, nuovamente da capo, e questo è il vero problema. artista è più facile. Io appunto anche con i miei compagni di musica da camera ci stiamo comunque arrangiando bene o male per come si possa fare, montando video in cui uno suona una parte, l'altro suona l'altra. Sì, qualcuno, io ho visto un'intera orchestra suonare con la direttrice che la dirigeva, è un esperimento, è chiaro, quando ci saremo, avremo esaurito l'effetto sorpresa, o l'effetto, dice, guarda che bravi questi, in questa difficoltà riescono a farci un concerto, e vorremmo qualcosa di più, qualcosa ci mancherà, o ci buttiamo sulle registrazioni, sono canali interi in streaming con tutti i concerti importanti, ma non si produrrà più nulla di nuovo, si fermerà tutta l'inventiva, la creatività e la capacità di interpretare sempre in maniera nuova anche i brani classici. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, stiamo raccogliendo testimonianze da tanti artisti da tutta Italia che stanno pensando di in qualche maniera arginare il rischio che possiamo rimanere senza arte, senza musica, senza rappresentazione dell'ingegno, dell'arte, della creatività, inventandosi qualcosa con i mezzi a disposizione, chiaramente. Per un attore è più difficile che per un pianista, per un direttore d'orchestra è possibile immaginando altre maniere. Ma andiamo avanti analizzando altre categorie e altre forme di espressione che rientrano sempre nella grande categoria della inventiva e dell'ingegno. Francesco, velocemente, provincia di Bari. Buongiorno signor Gianluca. Sì, faccio parte di una compagnia Room to Play e noi stiamo immaginando di realizzare spettacoli nelle masserie e nei lidi con le quali già collaboravamo, per i quali avevamo già degli spettacoli fissati che naturalmente sono saltati, però se in estate si riuscirà a venire fuori dalle case, immaginiamo degli spettacoli per piccoli gruppi, 20 persone, naturalmente il pubblico potrà avere la mascherina, i guanti, tutto quello che è necessario, e noi, la nostra compagnia, che è fondamentalmente formata da me e mia moglie, si spera che si possa recitare, insomma, di fare spettacoli. Diciamo, questo riduce molti rischi, già vivendo una vita promiscua, lei e sua moglie, fra voi potete anche stare vicini nella recitazione, certo potete fare soltanto pièce teatrali che prevedano due interpreti alla volta, non di più, però intanto qualcosa si può fare. Immaginate un pubblico seduto di 20 persone sparpagliate in una masseria, quindi che non stiano vicini, qualcosa potete fare. Io ho detto, bisogna reinventarsi nuovi moduli. Sebastiano, sempre provincia di Bari, vengo molte telefonate dal sud Italia. Questo momento, buongiorno Nicoletti. Sebastiano, velocemente, voglio passare anche a un altro argomento. Niente, io faccio parte di un'associazione culturale teatrale che si chiama Admoveo. Abbiamo creato un canale internet dove diamo le nostre performance teatrali e non, anche inedite. Abbiamo creato questo posto chiamato Caverna, diciamo, per i superstiti post-atomici di questa situazione, dove cerchiamo di dare al pubblico performance che diversamente potrebbero venire. Anche voi avete messo a punto, diciamo, un nuovo format. Ti ho detto, quando si parlerà, diciamo, della storia della rappresentazione artistica, dell'espressione artistica negli ultimi decenni, si parlerà di questa fase Covid che avrà creato, generato, fatto immaginare nuove forme d'arte alternativa. Christopher Giorgilli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Allora, Christopher Giorgilli è proprietario della G Group International, realizza eventi e manifestazioni di moda nel settore automobilistico, organizza convention. Ecco, questa lo voglio far entrare anche nel campo delle espressioni artistiche, perché tutto ciò che è rappresentazione, design, di moda, di immaginazione e anche di made in Italy, visto che è un termine in cui ci riempiamo tanto la bocca, soprattutto in questi ultimi giorni, ecco, anche voi sarete bloccati. Ho visto le grandi fiere storiche, da Vinitaly alla Fiera del Mobile, non ci sono più, e questo è un grande danno per l'economia, certo, ma anche per chi andava in questi posti proprio per appagarsi di vedere cosa si era inventato di nuovo in certi settori. Come vi state organizzando voi? Ma innanzitutto noi ci siamo posti un problema, sì, siamo completamente bloccati, non è possibile fare manifestazioni, non è finita l'esigenza però per il Made in Italy, e per le grandi imprese di comunicare la bellezza intrinseca dei loro prodotti. Rita il salone del mobile, ma sono tantissime le manifestazioni. Noi ci siamo posti un problema. Bene, non sarà più possibile probabilmente per un lungo tempo organizzare una sfilata di moda dove vengono 600 persone, organizzare la presentazione di un'automobile dove vengono 1000, 2000, 3000, 4000 persone. Allora abbiamo detto, può fare uno streaming, ticket simpliciter, ad esempio il dottor Armani, per cui noi facciamo le sfilate, lo fa ormai da 10 anni, e dobbiamo dare qualche cosa in più. Quindi abbiamo messo a disposizione i nostri asset, che sono dei grandi teatri studio, dove l'evento diventa ibrido, e cioè la persona che è seduta a casa e guarda quell'evento perché non partecipa, avrà non solo quello che era la bellezza delle scenografie reali, vere, la bellezza delle luci reali, vere, ma tutta una fase di realtà aumentata e delle piattaforme molto evolute che lo renderanno veramente protagonista, perché poi pensare che una persona segua un evento che dura mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, seduta a casa sua con lo stesso interesse con cui lo faceva deviso stando all'interno di una location, non è immaginabile. Soprattutto Cristo, dimmi se sei d'accordo, prima o poi passerà anche questo effetto sorpresa. Non ne potremo più di vedere l'artista in modalità sfigata a casa, senza trucco, senza luci, con un audio precario che ci intrattiene. Oggi lo apprezziamo, è un segnale di solidarietà, di generosità, di vita che continua comunque. Ma fra un po', quando saremo assuefatti a star dentro casa, e prima o poi dovremo assuefarci a star dentro casa, avremo bisogno di qualcosa di più. E questo qualcosa di più, secondo te, si costruisce attraverso l'immaginazione dell'ibrido? Cioè, comunque l'evento c'è, con tutta la sua magnificenza, certo, e con tutte le sue possibilità, diciamo, di meraviglia, di stupore. E a casa ci arriva una forma mediata con possibilità di intervento ulteriore attraverso la realtà aumentata, ad esempio. Ad esempio attraverso la realtà aumentata, attraverso gli approfondimenti, ma anche, passami il termine, la bellezza, l'autorialità in funzione della bellezza. E cioè, se prima la parte autoriale nella creazione di un evento aveva un'importanza in una scala da 1 a 10, domani sarà 20, anche se la scala è da 1 a 10, perché dovrei essere ancora più in grado di affascinare e magnificare la bellezza di quel prodotto, la bellezza di quell'abito, la bellezza di quel gioiello, la bellezza di quell'automobile. Siamo i più grandi creatori di bellezza del mondo, quindi magnificarla. Ecco, però qual è il punto di caduta? Perché sennò sembra che partiamo. Il punto di caduta, io immagino che in un mondo in cui mi rendo conto, io vedo molti miei colleghi non hanno nemmeno una rete a casa efficiente, non hanno un computer efficiente se non quello che gli forniva il suo editore, via dicendo. La maggior parte degli esseri umani in Italia pensava che lo smartphone fosse l'unico punto di accesso comunque a quelle basilari necessità della rete. Non è che in questo momento è importante, allo stessa maniera di far circolare le informazioni sulla necessità di distanziamento, delle misure di sicurezza, potenziare finalmente, fare un salto avanti dal punto di vista della rete? Se in Italia non abbiamo una rete efficiente, tutto questo comunque rischia di naufragare nel cimitero delle buone volontà, delle buone intenzioni. Assolutamente sì, tant'è vero che noi ci stiamo preparando ormai da un anno, perché sono molti, molti, molti, molti mesi che ne stiamo lavorando su queste necessità, e ci stiamo preparando al 5G. È vero che anche oggi noi riusciamo a dare un servizio di latenza zero, cioè io faccio un evento live e lo vedo dall'altra parte del mondo con una latenza zero, senza ritardi, e questo è fondamentale. Il 5G renderà ancora più forte questa possibilità. Ora il nostro paese deve farsi trovare pronto. Questo come reti, quindi tu pensa ai bambini delle scuole che molto spesso devono fare oggi la didattica online. Quanti bambini non hanno accesso a queste possibilità perché non hanno il computer a casa? Poi si dice le scuole riapriranno a settembre, ma a settembre avremo la sicurezza che possono andare a scuola i bambini? Siamo convinti? Non sarà il caso di organizzarsi anche perché tutti abbiano almeno il diritto di avere una connessione a casa e uno strumento a casa? Perché questo è fondamentale. Fermiamoci solo un secondo. Abbiamo Marro, provincia d'Alessandria. Ritorniamo un altro all'aspetto teatrale. Cosa state facendo voi, Mario? Ciao Gianluca. Sì. Ciao a tutti. Allora, Volevo semplicemente intervenire perché finalmente c'è una trasmissione che parla di queste cose, perché c'è una grande fetta di italiani che ci lavorano dentro il teatro e una grande fetta di italiani che ne sono spettatori. Allora io volevo semplicemente manifestare il mio accordo totale su quello che hai detto, cioè non basta rimpiazzare con il video il teatro che facevamo prima. Sarebbe come un cerotto di una feritina, così, di una corsicina, ma noi dobbiamo prepararci a un'altra cosa, a un cambio di passo. Noi dobbiamo modificare le forme, noi dobbiamo essere più elastici, noi dobbiamo poter recitare in spazi diversi mantenendo il nucleo drammaturgico e registico e attoriale dello spettacolo. Ma esattamente questo, quello che proponevo prima, senza, ripeto, con l'umiltà di non avere gli strumenti culturali per poter dare indicazioni, bisogna reinventare. Ci si inventa una nuova forma di teatro, come abbiamo visto forme di rappresentazione d'avanguardia, oggi facciamo qualcosa di diverso. 800240024 è sempre il nostro numero, però da domani potete cominciare a chiamare perché la trasmissione di oggi è finita. Alla prossima.